Un pescheretto c'hai sotto, hai Amico, aspetta allora. E adesso com'è? Gavino! Ora portante! Ok, adesso no. Che microfono stai usando? Capo, vai. Stavo usando l'MVP5. Ok. E come mai se ieri non te l'ha fatto? Non lo so, non lo gioco. Cosa è alzato? Aspetta che gli aggancio. Il coso, gli metto le batterie alla... come si chiama? All'MC60. Via. Ora. Funziona? Fra, quella radio ha qualche problema, eh? Cosa c'ha? Hai sempre quella storia sotto di questo... Secondo me guarda l'alimentazione di quella radio, fra. Non ha niente il... No, i microfoni non hanno nulla, è la radio. Dici che la radio. Secondo me sì, fra. Prova, fai col mic gain, col tastino mic gain a vedere. E adesso non hanno sta. Sì, adesso non ce l'hai, eh. Ok, adesso se faccio così ce l'ho, così è. Sì, Franco, sì, così ce l'hai. La potenza, vedi? Così ce l'ho. 20, quasi 20 watt. Così non ce l'ho. Esatto. Però la radio è bassa, eh? La radio è bassa. Cosa stai usando, l'MC60? Sì, sto usando l'MC60 qua. Però è bassa la radio. Prova a mettere il P5. Beh. Ok, adesso c'è il P5. Gabriele, mi hai sentito? Ok, ti rimane il look inserito, eh? E adesso? Perfetto, Franco. Capo, dai, che non aspetto, che non era il suo. Siccome c'erano tutti uguali. Niente. Adesso va bene. Ehi, alla grande. Ma perché non glielo agganci un 747 o un 131 a Lincoln? Vabbè, se non lo sai chi la... Aspetta, adesso vedi a vedere se mi fa altro difetto. Vedi a vedere adesso com'è, se è difetta. Sì, fra, è di nuovo. Come sollevi la potenza ti fa quel ronzo, eh? Oh, una cosa strana. Non l'ha mai fatto, gà. E adesso lo sto facendo? No, adesso no. Quando lo metto al massimo? Adesso ce l'ho a mezzogiorno. Lo sai cos'è quello? L'alimentatore, fra. Quello è l'alimentatore che non ce la fa. Aspetta, allora, vieni a vedere adesso, mi sa che lo sta facendo di nuovo, vero? Sì, fra, è l'alimentatore. È l'alimentatore che non ce la fa a portarla. E come fa a non portarla se è 30 ampere? C'entra niente, fra, non c'entra niente. Allora, tu pensa che io l'alimentatore da 30 ampere che uso per l'amplificatore, in FM va bene, quando metto in AM mi ronza, capito? Ronza, fa... E così, fra. Tu in genere quella radio la usavi con quell'alimentatore, con quel chip grande. E quello è tutta un'altra cosa. Sicuramente dà interferenza con alcuni finali. Ma non è magari che non ce la fa. Magari c'è qualche disaccoppiamento in alimentazione, non lo so. Comunque sì, è roba di alimentazione quella. Ho capito. Aspetta, adesso mi chilo l'MC60 e poi metto il 48 a vedere. Sì. Comunque io, fra, gliel'avrei agganciato MiV-131 pilotato con pochi watt e l'avrei usato, ma l'avrei messo anche a Saturnetto un 131, tanto ce li hai, ma cosa di nafuti, ma trattali. Sì, ce li ho, sono lì fermi, ma lo spazio è per lo spazio, vediamo un casino. Ma cosa, l'avresti pigliato, dovrai, te l'avresti buccia uno a fianco all'altro e l'avresti usati, almeno li facevi andare. Fra, tenerli fermi con la roba lì, ogni tanto almeno accendili. Oh, casino, è un casino. Aspetta. Adesso l'ho messo a raffreddare. Ho attaccato la ventola, a vedere. E cosa? Ma dell'alimentatore? Ehi, io ho attaccato la ventola, è un po' caldo. E fra, la ventola, ma quello esce con la ventola di serie, così sei tu che gliel'hai staccata. Sì, è una modifica che gli ho fatto io con l'alimentatore. Gli ho fatto il tasto per staccarla. No, fra, con l'alimentatore, quello ce l'ho uguale, ce l'ho uguale. Fra, quell'alimentatore devi prendere e lasciargli la ventola, perché quando lui va a lavorare la ventola rimane fissa. Quando lui va a lavorare aumenta la velocità, perché scaldano molto, fra, ecco perché ti fa la ronza. Lo so. E vabbè. No, adesso gli è attaccato. Me ne sono dimenticato di attaccarlo poco fa. Io l'ho messo dentro una scatola in modo da che la ventola, infatti. E quando io dico che si sente la ventola è perché quando lui va a lavorare i giri aumentano. Io l'ho messo dentro una scatola semiaperta, però attenua molto, ma chissà, da sarà sempre attaccata, chi lo bruci? Lo so che si brucia, se secondo come lo faccio. Beh, da buono vuoto mi viene male a attaccare un cavo all'alimentatore della sua radio. No, e beh, dopo te lo fai. Caspita, quel CEP proprio va fisso a perdere potenza, così? Sì, mi perde potenza, e vabbè, no, non mi assusso così, già riesce a farlo va. E quando saliamo assieme, magari se lo vuoi portare alla PLM glielo portiamo. Magari è una cavolata, magari è in perdita qualche finale di dietro, qualche finale. Ma non è detto che c'era il condensatore un po' gonfio? Io ho visto quello, ma magari può darsi anche quello, però magari c'è anche qualche finale che è in perdita. Se poi è solo quel condensatore è una cavolata. Fra, il finale va o non va? Non diciamo, quei transistor o vanno o non vanno, non hai una mezza scelta. Quel condensatore che è un po' in perdita e ti fa andare, magari lui ha qualcosa che lo fa andare in blocco, mi segui? Sì, magari come scalda va in blocco e poi subito si riaggancia. Esatto, perché quello non ha una ventola l'alimentatore, vero? Sì, che ce l'ha. Io in questo video io gli ho messo, perché lui non aveva ventole, e diventava una stufa di quelle qui cagliabu. Gli ho messo una ventola a 24 volt in modo che gira un po' più lenta, ed è silenziosa, e lui ha sempre quella temperatura costante, è ottimo. Ogni tanto, una volta al mese, lo prendo, lo smonto, lo apro, lo porto in garage, gli do una bella soffiata ed è tranquillo. Ma non ho capito in questi apparati, vabbè, in questi apparecchi, vabbè che va 40 anni, a mettergli una ventolina, a mettergli una ventola per il riscaldamento, per il raffreddamento. Cosa costa? Però, già gliel'ho messa io. Ne va bene così. Sì. No, questa non è fissa la ventola. Quando scalda e arriva a una certa temperatura si aggancia. Poi si risgancia e poi si riaggancia. Sì. Vabbè, è una cosa un po' più seria. Vado al termostato. Esatto. C'è un termostato. Ciao. Che si accorge dei riscaldamenti. Yes. Va bene. Casino è tutta quanta questa roba. Dunque. Bisogna ogni tanto fargli un po' di manutenzione anche. Perché quando bacchi e non c'è niente da fare, uno si può prendere e poi vedi i componenti elettrici quando partono. Ti molla piedi. Lo so. Purtroppo queste cose sono fatte così, ma sono fatte. Vedi, a 10 watt non è fa. Lo mando, guarda, 20 watt e lo fa. Vero? Adesso ha 20 watt, eri? Sì, non mi dici non l'ha fatto, no? No, non l'ha fatto. Allora era troppo caldo l'alimentatore. Mettilo a 20 watt? Adesso è a 20 watt. No, non lo fa. Lo vedi? Io te l'ho detto che era qualcosa in alimentazione. È tranquilla la radio. La radio è a posto. Sì, mi sa che lascio la ventola fissa. Lascio. No, la radio non c'ha niente, è impossibile che ci abbia qualcosa alla radio. Infatti, mi sembrava strano. Ovvero, devi lasciargli alla fragola la ventola inserita, perché lui poi va a scaldare troppo, eh? E di lì succedono i guai. Non ve la vazia, non ce la faceva. Sì, è così. E va bene. Allora ne gioco un'altra. Non pensavo che era... perché gli ho messo la mano sopra della bollente. Era. E adesso, diciamo, adesso dovrebbe essere più. Oh, vabbè, ghiacciato. E ghiacciata va. Vedi tu. È come la macchina, se tu prendi lì togli il radiatore, uguale. Non raffredda e fondi. Che era? Sì, vero. La metto a 60. Magari si sente poco, va? No, la ventola non si sente questo. Sicuramente è lei, Sicuramente è lei. Prova a abbassarlo di. Prova a metterlo a 3/4. Cosa? La potenza, mettila a 3/4. Guarda a vedere così, com'è? No, è uguale. Ehi, ma non gli fa niente, dai, la modulazione lo copre, no? Sì, alla grande. E beh, questa roba deve raffreddare. Oi, tu sei sempre in vendita le modifiche, capita. Per fuggire. No, ma adesso... se non ne trovo una 50 ne prendo un'altra, una 30 ne prendo e lo metto uno alla radio, uno all'altro. Se lo vuoi vieni, te lo do io uno a 30, non ne comparare, ce l'ho. Me la prendo un uomo, fregatene, lascia stare, tieni sempre che ti riserva, sembra che non ti serva, neanche te ne accorgi che ti serve. È in garage, non addirittura neanche, no, anche uno da 15 ampere dentro la scatola, nuovo, mai usato. Lasciali stare, quelli sono sempre buoni, sono cose che si devono tenere, anche se non li usi, oggi non li usi, domani vedrai che magari ti può servire. Scusa un attimino, Fra. Fai, tranquillo. Eccomi qua. Cara Rogero, sì. Aspetta, in 40 metri, cazzo, ma sta arrivando bene, 9, però il bello è la modulazione chiara. Fra. Ti arrivano chiari, tutta un'altra cosa dalla Mantova. Sì, in effetti è così. va bene. E pensa che non risuona proprio in quella frequenza, capito? Però ti fa ascoltare bene perché hai il rumore di fondo basso, non vai QRM strano, non vai noise si chiama. Dai, ti fa fare un po' di ascolto tranquillo, perché poi prendi e squelci, gli metti lo squelci, glielo trovi giusto e ti apre proprio quando loro parlano e dai, è più confortevole. Ecco, sì. No, i 20 metri risuono meglio, perché mi arrivano più forte, mi arrivano intorno alle 9.20, 9.30. Sì. Sono, esci a vedere chi 20 metri, vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Senti, io li ricevo proprio bene. E adesso con questo microfono. Però sono buone, sono come antenne fra, vuol dire polo, non sbagli. Sì, in effetti sì. No, ma già vanno bene, in ascolto vanno benissimo. Sono belli puri, sono. Questo l'altro si riceveva dall'inizio, poi quando si era riempito d'acqua hanno cominciato a non ricevere più, infatti è per quello che l'ho tolto. E quando ho visto com'era, per carità. No, poi hai visto com'era il capo, si spezzava, tirando spezzava il capo, no? Era proprio, era ossidato, no? non poteva mai funzionare fra. Però adesso con quel filo che abbiamo messo l'hai isolata la scatola, no? No, ancora no, bevuto un po', però il buco è sotto, è quello dei fianchi, non penso che sia entrato due Eva. Ma magari no, gliel'ho fatto giusto, magari controllalo, quando hai tempo lo scendi con la carrucola e lo controlli, e gli metti appena di quella gomma. Sì, già l'ho detto, sì. Tanto una volta gli metti la gomma è a posto. Una volta che poni questa gomma, ma poi col cavo puoi mettere anche quel cavo lì, quello blu, è molto vistoso, capito? Se tu glielo vuoi mettere, te li prendi 20 metri, 25 metri di filo da un e mezzo grigio e non lo vedi, proprio diventa invisibile fra. Capo, sì, ma anche i rubellini non me ne fotti nulla, ma anche se lo vedono gli altri, cazzo me ne fotti, ma il problema è vale. Ma tu hai, lo so cosa lo puoi fare visto che ce l'hai, con quella bobinetta per la saldatrice a filo continuo, con quel filo animato, anche con quello lo puoi fare. Con quel filo lì. Ehi, a voglia fra. Capita poco andava bene. Oh cavolo, ma se non lo sapevo. Cazzo, tanto conviene sprecarlo un rotolo. Cosa fra? Un rotolo conviene sprecarlo. Ehi, vabbè. Ma cosa ne spieghi? 20 metri, che 100 metri mi pare. Non lo so quanto è, non mi ricordo. Ma giannaggio di chi si frutturi. Glielo fai con quello, lo sai, quello diventa invisibile, no, non è che... E poi è acciaioso, è ferroso, è acciaioso, se è quello per l'acciaio, guai, non prende neanche ruggine, non... e va bene. E mai il viaggio. Una gigante rotoli di viaggio lunghissimi. Non rotoli grandi grandi, no, picchi, quelli più piccoli. E cosa ne metti 10 metri per parte, boh, finito. Ehi, hai pista. Ma te lo immagino, non lo so, proprio lo sapevo. Andava. Quando ricapita. Ehi, quando lo vuoi fare mi chiami una sera che sono libero, vengo e lo facciamo. E poi ti faccio vedere che non si vede, ti puoi ancorare dove vuoi, hai già mai compreso? Ehi, ho già compreso. L'invisibilità. Sì, non si vede, non si vede fra. Ti attacchi dove vuoi, e allora è un'altra cosa, ancora. Non ci ho pensato a dirtelo l'altro giorno. Cosa? Che non ci ho pensato a dirtelo l'altro giorno. Ah, sì, vabbè. Ma neanche io, infatti, stavamo parlando di quel filo da pesca. Stavamo parlando, poi No, mi sono ricordato adesso che tu c'hai la saldatrice a filo continuo e mi avevi detto che avevi comprato anche quei rotolini. E uno te lo dai, un pezzettino te lo sacrifichi, ma è proprio invisibile, eh? Proprio vai di Bunillo, ci devi mettere proprio l'occhio, capo, sì, l'ho capito già, che aspetta, ehi, alla prossima, poi vediamo, adesso vediamo così, poi più avanti vediamo se lo possiamo agganciare anche là. Yes. Sì. Anche perché a quel dipolo adesso puoi fargli tre bracci, capito? Ti puoi fare tre frequenze. Puoi farti, diciamo, puoi fare per l'ascolto per i 20 metri, puoi fare per i 40 e puoi fare anche per la 27. Capito? Quindi fai tre braccia e con quel filo lì e non si vede. No, questo la 27 non lo ascolta. A voi sì, perché siete molto vicini, ma da lontano no. Ehi, ma col dipolo della 27 puoi anche trasmettere. Quindi hai un'antenna in più. Hai anche un'antenna in più, puoi usare anche la radio. Ehi, capo, sì. Andare. Caspita, lui mi piace che l'ha già seccata, il Santenna l'ha già seccato la posizione, la stazionaria. Sì. Prendi e quando è tempo lo facciamo, quello con quel filo lì, con quel filo di saldatrice. E vedrai che esce bene, Ehi, capo. Ah, certo che sia bello, se risuona quel filo, sì, esce bene. Ma stai scherzando, è meglio il filo elettrico. Perché quello è, sì, è in acciaio, sicuramente è in acciaio, perché io ho preso, mi sembra, di quello, ferro-acciaio. E allora? Sì, risuona bene, quello è proprio buono, le fanno le antenne con quel filo, eh? Le fanno le antenne con quel filo fra. E ha voglia che si fanno. Ed escono perfette perché fra, hai proprio il materiale. C'è proprio materiale, anche se è fine, però c'è materiale, capito? E rimane invisibile. Rimane molto rigido, cioè non molto rigido, rimane una volta che tu lo prendi e lo metti in tira, lui prende e rimane. Non hai l'oscillazione che ha il filo di rame, capito? E poi è leggero. E andava ghisso. Capo. Sì. E vabbè. Vediamo. Non lo sta facendo più, no? Allora è quello che è giusto. Deve essere sempre attaccata alla ventola. Sì, la ventola deve stare sempre attaccata fra. Non, perché poi visto quando va in trasmissione aumenta di giri. Sì, vabbè, quello tutti quegli alimentatori lo fanno. Ma non si sente poi, eh? non si sente fra, quindi lasciali all'attaccata. La magari ti dà fastidio un po' a te, però devi infreddare, e tu devi infreddare. Mio, te lo buoni sotto la scrivania, la agganci sotto la scrivania, ma non si sente, non si sente, quindi lasciagliela sempre attaccata, che lui rimane a temperatura. Ecco. No, no, ma davvero non mi dà fastidio, è sotto all'angolo della scrivania sinistra. Ciao, mi va bene lì, perché anzi, lo vedo quando si spegne e quando si accende. Quando spengo io, che dove l'ho collegato, c'ho una ciabatta che c'ha il pulsante per spegnere e accenderlo. Sì, quando lo devi usare, poi quando usi il Saturneco prendi lo stato. E ciccio. E va bene usi, e va bene usi. Uia. Beh fra, mi sembra che mi faccio qualcosa in garage, mi sistemo qualcosa in garage, come? A lavorare te ne fai. Vai, vai. Tranquillo. No, e devo sistemarmi un po' di. Ma sono fesserie, mi. Sono fesserie che mi devo prendere e mettere tutto nella rastrelliera, gli attrezzi, perché ce l'ho tutti sul banco. E quindi devo mettermi a posto, perché se mi capita andare a cercare un ferro, poi devo stare infuruggendo e mi piazza ancora più casino. Mi segui? Questa cosa mi rode un pochino. Ma certo, certo che è così. Purtroppo. Noi siamo abituati di guidare una nera. Vediamo, punì. Dopo la faccio, dopo la metto a posto, dopo la metto a posto non la muovi mai a posto. Esatto, esatto. Poi andassi a un ferro e stai guindando il zebito a pigliare e a ciappallo e a chi va un casino. No, no, me lo metto a posto, ma io credo un'oretta, una mezz'oretta e poi me ne rientro a casa. Intanto, ma hai visto il vento che si è messo? Quello è, te l'ho detto poco fa che sta passando il vento. La miseria, oh. E vabbè, dai, cosa ci vuoi fare? Non ci puoi fare niente, non ci puoi, solo dentro casa non tocca, dentro casa già non tocca. Va bene, ma dopo sei in radio? Cappa, mi sa che anche se c'è un po' di vento, me lo scendo quel dipolo e me lo sigillo, col vento asciuga prima. Fatti quel lavoro lì, così sei tranquillo, fra. Così guardi se c'è mai entrata qualcosina d'acqua dentro e gliela asciughi e gli metti quella gomma. Oggi mezz'oretta che sa roba è asciutta. Sì, adesso esco, là. A dopo, vai. Eia. Mi porto il Baofeng in garage, nella frequenza che abbiamo noi monitor, ci vuoi fare chiamata. Anzi, prova a vedere, prendi il Baofeng che vediamo se mi copi fuori. Fuori può darsi, e dove l'ho messo? Non lavoro. Eia, dai, aspetta che lo prendo e provo ad andare in garage. Eia, io sono fuori.